GR24, il sole 24 ore. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In apertura alla crisi europea all'indomani delle elezioni greche, su cui si è concentrata l'attenzione di tutta l'Europa e non solo. Bisogna fare in fretta, dice il presidente greco, che sta già incontrando il leader del partito greco di destra Nea Dimokratia, Antonis Samaras. E allora noi ci colleghiamo con Atene, con l'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, effettivamente è tutto partito. Il primo ministro incaricato sarà Antonis Samaras di Neodemocrazia, il partito che ha appunto vinto le elezioni, ma avrà bisogno dell'aiuto del partito socialista, dei voti dei socialisti per arrivare alla maggioranza del 151 voti necessari per averne appunto al Parlamento greco. Però ci sarà forse anche un terzo partito di sinistra democratica, quindi il quadro si fa un po' più complicato, e per questo la borsa di Atene, che era partita con un più 8%, adesso è calata e torna verso il 4%, e quindi c'è una certa moderazione, soprattutto perché Siriza, che è la sinistra radicale, il partito che è diventato il competitor di Neodemocrazia, ha promesso che farà appunto le barricate se dovessero arrivare i tagli a luglio per 16 miliardi su pensione e stipendi. Vittorio, un ritratto di Samaras. Samaras è il leader che in qualche modo ha un'ambiguità di fondo, perché è stato il delfino di Karamanlis, poi però ha litigato ferocemente perché ha un carattere molto forte e spigoloso, ha formato un suo partito, dopodiché è ritornato nell'Alveo Democrazia, dove ha combattuto ferocemente il memorandum, quindi questo partito che voleva tornare con le riforme. Dopodiché, quando ha capito che era inevitabile accettare queste riforme strutturali, ha deciso appunto di tornare alla carica. Ora deve fare quello che prima aveva criticato. In qualche modo quindi c'è un'ambiguità di fondo. È il rappresentante di un partito che ha portato il paese in questa situazione, e ora deve trovare la via per cercare di recuperarla. Speriamo. È un forte nazionalista anche. E speriamo che dunque la trovi. Grazie da Atene all'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold, che naturalmente risentiremo nel corso della giornata, perché per la Grecia oggi è davvero una giornata molto importante. Una prima tranche da 1 miliardo, già autorizzata, sarà versata alla Grecia, poi ci saranno verifiche della Troica per arrivare alla seconda. Lo ha detto Marianne Côté, portavoce del ministro Wolfgang Schäuble a Berlino. E sempre dal governo tedesco, poco fa la smentita sulle parole di ieri del ministro degli esteri Westerwelle, che aveva detto, lo ricorderete, di poter immaginare che si riparlerà di rimodulazione dei tempi. Stamattina invece l'ha smentita, nessuno parla dei tempi delle riforme oggi, ha detto il portavoce del governo tedesco Georg Streiter. Queste dunque le prime dichiarazioni dall'Europa, ma la Grecia e più in generale la crisi europea saranno protagoniste del G20 di Los Cabos in Messico. Allora sentiamo Mario Platero. A Los Cabos i risultati delle elezioni in Grecia hanno cambiato l'umore dei partecipanti ai lavori del gruppo dei 20. Dopo una giornata, quella di ieri, durissima, faticosa, si è rasserenata l'atmosfera quando si è saputo che la Grecia aveva votato per l'euro. Il presidente del Consiglio, Mario Monti, appena arrivato a Los Cabos, ha subito affrontato la questione greca rallegrandosi proprio per i risultati, e ha detto che pur in condizioni difficili il popolo greco abbia capito qual è il valore dell'Europa. Speriamo adesso che venga formato al più presto un governo forte e che ci sia la conferma degli impegni presi con l'Unione Europea. Mario Monti ha anche espresso ottimismo per le possibilità di trovare un accordo per rilanciare la crescita, e ha aggiunto: voi sapete qual è la posizione del governo italiano e sapete quali sono le dinamiche anche all'interno dell'Unione Europea. Credo che le prospettive si stiano avvicinando, e questo è positivo. confermando così che allo Scabos l'atmosfera si è in effetti rasserenata. E grazie dunque a Mario Platero. Atmosfera rasserenata, lo sentivamo al G20 di Los Cabos. Atmosfera ben meno tranquilla quella invece sui mercati. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno a tutti. Allora, le borse questa mattina sono partite bene. Dall'Asia c'è stato un generale coro di rialzi dopo il risultato elettorale greco. L'Europa invece appare più prudente, anche perché il mercato sta guardando ai differenti orientamenti delle varie case di investimento, che interpretano in maniera molto differente il risultato elettorale. Positive Credit Suisse, Morgan Stanley e Barclays, mentre la casa americana Citi e i suoi analisti ha fatto sapere che ritiene che la Grecia fuori dall'euro resta uno scenario ad alta probabilità nonostante l'esito delle elezioni politiche di ieri, e questo naturalmente getta nell'incertezza i listini. Londra guadagna lo 0,34%, Parigi è sulla parità, Francoforte guadagna lo 0,7%, in avvio erano tutte positive in maniera più consistente, poi hanno rallentato il passo e fanno difficoltà adesso a recuperarlo. Milano perde 1,5%, però segnaliamo che a Milano oggi c'è lo stacco dei dividendi per 6 big, uno stacco che vale l'1,2%, al netto dunque di questo Piazza Affari in questo momento sarebbe negativa dello 0,3%. In ogni caso è la peggior piazza d'Europa. Pesa anche lo spread, che si è di nuovo allargato dopo essere partito bene, è arrivato a 433 punti base per risalire oltre 460, ma è soprattutto quello spagnolo che desta di nuovo grande preoccupazione, perché i decennali dei bonus e dei titoli decennali, appunto i tassi dei bonus e dei decennali spagnoli, è sopra il 7%, con lo spread che è sopra i 570 punti base. L'euro sul dollaro a 1,2626. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani, e lasciamo questa lunga pagina dedicata alla crisi europea per andare invece in Egitto, dove questa mattina è arrivata la conferma. Lo spoglio delle schede delle presidenziali è infatti terminato e dà il candidato dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi in testa. Cosa può significare questo per il paese e anche per i rapporti che questo paese ha con l'Europa? Ce lo racconta in diretta dal Cairo l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Ugo. Sì, è quasi sicuro oramai che i Fratelli Musulmani hanno conquistato la presidenza. Tra qualche minuto ci sarà la conferenza stampa di Shafiq, l'altro candidato, l'ex ministro di Mubarak, che presumibilmente ammetterà la sconfitta. Il problema è che presidente sarà quello dei Fratelli Musulmani, che presidente sarebbe qualsiasi presidente in Egitto oggi, dal momento che i militari nel frattempo hanno fatto un paio di golpe bianchi, a partendo dall'autorazione del Parlamento fino ad assumersi tutti i poteri legislativi. Che quali poteri avrà questo presidente? Quello di cui ha urgentemente bisogno l'Egitto è comunque qualcuno che lo governi, e che ne governi soprattutto la crisi, sempre la crisi economica sempre più profonda. Ecco, vista da qui la crisi, quello che sta succedendo in Egitto non è davvero chiarissimo. C'è da preoccuparci, Ugo, per quello che sta accadendo? Beh, se la cosa può consolare, non è chiarissimo nemmeno a chi resta in Egitto, non tanto io quanto forse probabilmente gli stessi protagonisti. Faccio un esempio, lo SCAF, appunto la giunta militare che sta gestendo la transizione, in realtà il potere di questo paese, dopo aver appunto essersi assunto tutti i poteri, anche stamattina ha annunciato che comunque, come promesso, il 30 giugno si ritirerà. Si ritirerà da che cosa non è chiaro, perché a chi affiderà il potere, dal momento che ha eliminato i poteri del presidente, non c'è un Parlamento, non c'è una commissione costituzionale, ed è difficile immaginare, nonostante lo dica, come potrà uscire dalla gestione del potere. Quindi grande confusione anche automobilistica, da quello che sentiamo dai suoni di sottofondo. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore al Cairo, Ugo Tramballi. E noi ci trasferiamo invece a Parigi, perché abbiamo parlato a lungo delle elezioni in Grecia, ma ieri, come sapete, c'è stato in Europa un altro importante appuntamento elettorale, quello in Francia, dove è stato un trionfo per il neopresidente François Hollande. E allora da Parigi Marco Moussanet. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, il Partito Socialista, lo sappiamo, ce l'hai raccontato anche nei GR di questa mattina, ha ottenuto la maggioranza assoluta. Un trionfo per Hollande che era da aspettarsi o no? Beh, diciamo che il risultato è andato al di là delle più rosee attese. Le previsioni di fino a una settimana fa, fino a 10 giorni fa, parlavano di una maggioranza relativa dei socialisti alla Camera. Poi si è cominciato a prevedere una maggioranza assoluta insieme agli alleati storici del Partito Socialista, i radicali di sinistra,

4 anni di squalifica per Colacone, Comazzi, Mastronunzio e Paoloni, 3 anni e 6 mesi per Cossato e Ventola, 3 anni per Cristante, Italiano e Vantaggiato, 4 i calciatori prosciolti. Fra le prime reazioni, quelle del Pescara, il presidente Sebastiani si è detto sgomento per la condanna e ha annunciato ricorso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per ironia della sorte, proprio la paura di una combine la protagonista di questa vigilia d'Italia-Irlanda. Allora siamo qui con il nostro Dario Ceccarelli. Buongiorno Dario. Allora oggi comunque vada è il giorno decisivo. Sì Piera, comunque vada, oggi si decide. L'Italia gioca con l'Irlanda del Trapp e al di là delle paure del famoso biscotto tra Croazia e Spagna, quello che conta è battere gli irlandesi e magari batterli bene. L'impressione infatti è che questa partita la si dia un po' troppo per acquisita, invece è tutta da fare. Questa è una svolta, come era già stato con la Slovacchia 2 anni fa ai campionati del mondo, perché un pareggio ci condannerebbe all'eliminazione. Non solo, in caso di risultato negativo rischia di saltare tutto il progetto di Cesare Prandelli. Sentiamolo proprio su questo proposito. Se dovesse andare male è normale che ci si prenda la responsabilità del perché è andata male e fare dopo, magari più avanti, le riflessioni del perché è andata male. Ovviamente c'è l'amarezza, ci sarà la delusione, eccetera. Adesso non è che voglio gufare. Io sono convinto che una partita di calcio potremmo prepararla in maniera diversa, un po' più distensiva, un po' più, magari ho usato la parola del sorriso, ma di distemperare un po' le tensioni, non so come dire. Cioè, è comunque sempre una partita di calcio. È una partita di calcio, dice Prandelli. In realtà sappiamo che in Italia le partite di calcio, soprattutto quelle dell'Italia, diventano un caso veramente nazionale, dove tutti diventano commissari tecnici, a volte perfino chi ha importanti responsabilità politiche. Certo. Dario, prima parlavi del famoso biscotto, un termine davvero orribile per definire la combine. Ma pensi davvero che fra Spagna e Croazia ci sia la possibilità di un aggiustamento a tavolino? Guarda, stabilire un 2-2 sul campo non è facile e poi non è giusto che noi italiani, passati alle cronache proprio per questo genere di pasticci, si dubiti della buona fede altrui. La Spagna è campione del mondo, ci tiene a vincere e certo, l'unica può succedere che le due squadre a 5 minuti dalla fine si trovino sul 2-2, chiaro che a quel punto non si ammazzano per segnare, perché tutto sommato può far comodo. È sempre stato così nel calcio, ma io non credo che questa volta andrà così. Sentiamo Trapattoni proprio su questa vicenda del biscotto. Gli organi competenti presteranno sicuramente molta più attenzione. I dubbi sono sempre rimasti, quindi sarà molto difficile che possa ripetersi la situazione. Ecco, questa era Trapattoni. Prandelli invece proprio al biscotto non ci crede. Sentiamolo. È inconcepibile che una squadra come la Spagna, che ha basato tutto la propria immagine non solo sul gioco, lo spettacolo, il divertimento, eccetera, possa pensare di poter programmare una partita. Assolutamente è impossibile. Sì, è bello sentire che il CT è così fiducioso. Comunque noi i mezzi li abbiamo, l'importante è che tra il dire e il fare ci sia di mezzo il gol, cioè la nostra scarsa propensione a segnare, che finora appunto lo abbiamo dimostrato, facciamo fatica. E allora veniamo proprio alla formazione, Dario, quale sarà oggi? Ma guarda, Prandelli punta su Cassano e Di Natale in prima linea proprio per dare un po' di freschezza all'attacco. E poi verrà riportato De Rossi a centrocampo col modulo classico 4-3-1-2. Abate e Balzaretti sono le forze fresche sulle corsie laterali per dare maggiore spinta verso l'attacco. Al di là dei moduli comunque ci vuole cuore e talento. Finora li abbiamo avuti ad intermittenza, speriamo che stasera i blackout siano finiti. Speriamo davvero, grazie al nostro Dario Ceccarelli. E cambiamo decisamente argomento. Un accordo bis fra Italia e Libia per la lotta all'immigrazione clandestina, che ripercorre in tutti i suoi passaggi quello siglato nel 2008 dal governo Berlusconi. L'intesa è stata firmata il 3 aprile scorso a Tripoli dal ministro dell'interno Cancellieri e dal ministro dell'interno libico. Di fatto riconferma tutte le vecchie intese siglate al tempo di Gheddafi, compresa quella contestata anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo sui respingimenti in mare. Temiamo gravi violazioni dei diritti umani, dice Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International, al microfono di Cristina Carpinelli. con la Libia attuale ogni accordo in materia di immigrazione, di contrasto all'immigrazione, rischia di fare molti danni. Quali sono le cose che vi allarmano di più, diciamo, leggendo questa bozza di accordo? La completa assenza di qualunque riferimento al tema dell'asilo politico. Detto in altri termini, se l'Italia collabora, come è scritto che intende collaborare, a tenere richiedenti asilo, rifugiati in Libia, collabora a violazioni dei diritti umani, questo è indubbio. E poi ci sono anche le posizioni espresse da Strasburgo che in qualche modo non vengono quasi ascoltate leggendo insomma questo accordo, c'è una reiterazione? C'è una forte enfasi su contrasto, prevenire, impedire, fermare, non c'è nulla che possa rassicurare gli organismi internazionali e le organizzazioni per i diritti umani riguardo ai diritti umani, c'è un riferimento generico che è del tutto ornamentale a questo punto, è come se la Libia dia una sorta di rassicurazione all'Italia che rispetterà i diritti umani e l'Italia si accontenti di questo. La Libia di oggi garanzia non può darne, è uno Stato in cui manca completamente l'applicazione della legge, in cui i migranti e richiedenti asilo e rifugiati vivono se possibile anche peggio che i tempi di Gheddafi. E quindi chiederemo che al di là se questo processo verbale poi darà seguito a un accordo vero e proprio, se questo è già considerato un accordo, il governo dovrebbe dare qualche spiegazione in più sullo stato dell'arte dei rapporti con la Libia. Il cardinale Tarcisio Bertone interviene sul Vatilix con un'intervista a Famiglia Cristiana. Se chi scrive al Papa, dice il segretario di Stato, vede violato un proprio diritto costituzionalmente garantito in Italia, quello della privacy, qualche problema bisogna pur porselo. O la Costituzione prevede cittadini di serie A e di serie B, per Bertone contro il Vaticano in questi mesi sono state propalate meschinità e menzogne. Quanto al ruolo dell'informazione, per Bertone molti giornalisti giocano a fare l'imitazione di Dan Brown. Si continua ad inventare favole o riproporre leggende. E questa mattina le parole del sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo: non ci sono altre strade per far ripartire l'economia nel breve periodo, serve uno shock. E questo shock consisterebbe nel brevissimo periodo per aumentare la produttività. Ci sarebbe bisogno che gli italiani rinunciassero ad una settimana di ferie. Questa è la proposta del sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo. Siamo alla riforma del mercato del lavoro. Il Presidente del Consiglio Monti vuole arrivare al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno con la riforma già approvata e per questo dovrà ricorrere all'ennesima fiducia. Ma i partiti che sostengono il governo sono dubbiosi. È un braccio di ferro quello tra governo e partiti sulla riforma del lavoro che si gioca non solo sui contenuti del provvedimento ma anche sui tempi di approvazione dello stesso. Per il ministro dello sviluppo economico Passera è possibile arrivare al Consiglio europeo di Bruxelles del prossimo 28 giugno con la riforma alle spalle. È già stata approvata da un ramo del Parlamento, spiega Passera, ci sono quindi tutti i presupposti per approvarla definitivamente. Bene la data del 28 giugno, commentano dal Partito Democratico, ma a patto che il governo vari un decreto legge per risolvere la questione esodati. Così Rosi Bindi. Noi siamo pronti, come abbiamo sempre dimostrato, però c'è questa emergenza vera. Se il governo aveva tutta questa urgenza, poteva seguire la strada del decreto ribatte dal Popolo della Libertà Cicchitto. Sempre dal PDL, Brunetta, intervenuto a Radio 24, spiega. Lo chiedo al presidente Monti, se voleva avere risultati certi, ne fatti tanti di decreti legge, uno più uno meno, poteva fare un decreto legge, tra l'altro noi eravamo favorevoli. Per approvare la riforma entro giugno non ci sono ostacoli parlamentari, fa sapere intanto il presidente della Camera Fini. Domani il ministro Fornero riferirà al Senato sugli esodati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Impegnatevi e meritatevi il futuro. Il ministro dell'istruzione Francesco Profumo invia il suo in bocca al lupo agli studenti che si accingono a sostenere l'esame di maturità. Questa mattina invece la prova in Valsi che all'interno dell'esame di terza media. E vi ricordiamo l'iniziativa domani sera di Radio 24, notte prima degli esami, dalle 21 alle 24. I ragazzi ci racconteranno le loro paure, le loro ansie. Noi invece vi daremo consigli e sentiremo anche la maturità di chi già l'ha fatta. Quindi tanti personaggi della cultura e dello spettacolo ci racconteranno la loro maturità e ci sarà il racconto anche del ministro Profumo che ci racconterà appunto il suo esame. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.